Allora, sì, le 6 e 31 minuti primi di questo venerdì 17 maggio 2019. Un ben trovate e ben trovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come ogni venerdì a quest'ora, ben trovate e ben trovati con la nostra oretta settimanale di teologia estrema delle ore di religione. Ore di religione che tornano dopo la lunga pausa per il ponte che ci siamo presi, anche se in realtà non siamo andati in vacanza, ma esatto, siamo andati a lavorare, esatto, purtroppo. Sì, esatto. E quindi torniamo adesso. Buonasera. Ma diciamo torniamo proprio a Cecio, perché noi siamo collegati, sì, direttamente. Sì, ti lascio subito la parola dicendo con l'altra parte del Tevere. Perché tu avrai, diciamo, l'onore di introdurre, dopo tanta fatica che noi abbiamo fatto negli anni, per la prima volta un gesto di vera teologia estrema. Eh sì, davvero. Si è compiuto niente meno che per mano di un cardinale. Neanche una settimana fa, insomma, è stato, diciamo, abbiamo parlato a lungo e largo, la rassegna stampa, eccetera, eccetera. Chiaramente per noi, diciamo, per il tema di cui trattiamo, la notizia della settimana, e non solo della settimana, è il fatto che l'elemosiniere del Papa, che detta così sembra qualcosa di folclorico, ma è, come dire, l'assessore ai servizi sociali del Vaticano, con tutto quello che ne consegue, che è andato di sua sponte ufficialmente, poi al di là del fatto che lui abbia o meno tagliato i sigilli, ma tutto questo è assolutamente irrilevante, a rimettere la corrente elettrica all'interno di uno stabile occupato da centinaia di persone senza casa, e che si trovano lì appunto in quanto sono senza casa, e che da diversi giorni erano privi di acqua corrente ed elettricità. Dicendo sostanzialmente cosa? Che ci sono dei diritti inalienabili e dei valori, come diceva il Papa Emerito, non negoziabili sostanzialmente. O per metterla a un livello un po' più elevato. Cioè, ci sono dei valori non negoziabili in due direzioni. Certo, non solo. Esatto, non solo nell'una ma anche nell'altra. E dicendo che il diritto naturale poi alla fine ha sempre la meglio sul diritto positivo, almeno in alcuni casi. Ora, cioè, nel senso, se ci sono dei bambini che non hanno acqua e elettricità e quindi possono rischiare la salute, diciamo, la norma principale è farli sopravvivere. Solo all'embrione, esatto. Magari pure se è vivo, quindi insomma questo è un passaggio che sarebbe dovuto, banale. Esatto, banale, però fino adesso sembra di no. Non c'erano arrivati. Però d'altra parte, tornando a noi, di queste cose abbiamo parlato e le abbiamo affrontate da prima del gesto dell'elemosiniere, giusto? Sì, dunque, no, ma ti faccio io però, ci abbiamo una comunicazione per il servizio, scusateci, quindi procedo solitario perché c'è un intervento, diciamo, imprevisto di pochi minuti. E quindi dicevo, come nell'interruzione precedente, si tratta proprio evidentemente, anche se sembra ironico, fa sorridere, specialmente qui detto da noi nella nostra trasmissione, ma effettivamente si tratta veramente di un gesto di teologia estrema, se non altro nell'interno, diciamo, di questa, nella cornice di questa fase che ormai dura da alcuni anni, di gravi tensioni proprio sul tema del sociale, perché questo, io uso il termine il sociale perché è veramente quello più che sociale, appunto, no, ma poi è quello che ha adottato quando si parla, diciamo, di enciclica sociale, no? Quindi nel senso più, come dire, rotondo del termine. E mi collego subito, non a caso, perché il collegamento esiste, ma solo questo per così evocare un orrore di cui invece parleremo nelle prossime occasioni, perché ci riguarda, in quanto anche lì trattasi comunque di un'espressione che attinge a una certa cultura, si tratta di quel sociale che è sotto attacco proprio attraverso la sociologia, che rientra in quelle materie che Bolsonaro in Brasile vuole vetare. Non è ovviamente casuale, no, per che nulla. Questa cosa in una forma completamente diversa sia in atto in un processo che è terrificante, perché stiamo minando le radici, diciamo, della cultura tout court, appunto in questa terra martoriata che è Latino America, e in particolare il grandissimo Brasile, secondo solo agli Stati Uniti, diciamo, nel continente, per estensione, sì, certo, insomma, per potenza anche, come dire, di risorse, no? Quindi un posto, ma e anche per storia, perché anche lì c'è un problema anche di nativi, ovviamente, sì, che ha a che fare con questo. Lì, e ne sono sopravvissuti un po' di più. Queste discipline come la filosofia, la sociologia, la storia dell'arte, quindi le scienze umane, sollevano per natura, senza vocazione politica, ma per natura di disciplina, tutti i quesiti che comporta questo status, diciamo, di quel luogo, e inevitabilmente, appunto, proprio la dimensione antropologica del Brasile, che è ampiamente, come dire, conosciuta e studiata dall'etnografia, perché si tratta di un luogo abbastanza particolare, appunto, ma molto simile agli Stati Uniti anche per i 200 milioni di abitanti, e che sono una grande mescolanza delle fogge più diverse, ecco. quindi da questo punto di vista, e quindi è inevitabile che lì vi siano delle questioni complesse. Questa liquidazione non è pericolosa, è molto oltre. Sì, quando si vuole semplificare in questo modo c'è sempre da preoccuparsi. Questa era solo una parentesi, non voglio, per accennare anche che tratteremo di nuovo questo argomento. Dunque, qui appunto torna il tema del sociale, proprio perché è in questa misura, no? Che agisce il cardinale polacco, peraltro, portato da Wojtyla, perché lui sì, è nel no, fine no, anni no, 90 no, no, no. Questo è stato nominato da cardinale da Bergoglio, è un suo uomo possiamo dirlo, nel senso proprio del termine, perché fa parte di quel processo di così, rinnovamento che lui si è dato come mandato del pontificato, pur restando in modo abbastanza schietto, perché lo ha anche detto, e con gli stessi toni brutali che, per cui da un lato può soddisfare l'apprezzamento del mondo progressista, mentre appunto dall'altro il rigetto per le posizioni comunque ortodosse, più care invece a il mondo conservatore, e in particolare anche ultraconservatore, che però in realtà lo ritiene comunque troppo tenero. Quindi anche su quelle posizioni, con le stesse posizioni che sono inevitabili, perché quello è il Papa, appunto, ricordiamolo sempre, non metterà mai in discussione determinate cose, però appunto la novità è che su questo fronte agisce con la stessa determinazione, e quindi, dicevo, nel solco di un rinnovamento che passa anche dalla nomina, ovviamente, e come sempre penso negli ultimi 6.000 anni di storia delle civiltà organizzate a grande potenziale demografico, dove sono necessarie tutta una serie di forme della distribuzione del potere, della pratica, della politica. Anche la Chiesa, che ricordiamolo, di fatto è un'entità diciamo extraterritoriale, transnazionale, con un suo microstato che abbiamo qui da noi a poche centinaia di metri, che è però che è un simulacro di qualcos'altro, certo, che governa molto oltre un miliardo di persone, quindi si può collocare tra le gigantesche potenze, diciamo terza solo a India e Cina, come nazioni che hanno questa popolazione. Quindi, e dall'altra parte c'è l'Islam, con un numero altrettanto grosso di fedeli, e quindi insomma la Chiesa Cattolica non va presa sempre con cautela, perché è una macchina grande, potente, e comunque anche con una storia complessa. Perché dico questo? Perché ho letto il nulla. Il nulla o il tutto. E il tutto, esattamente, come ormai è sempre più a precipizio, no? La lettura di noi che comunque andiamo a sbirciare per capire, io in particolare, perché alla fine è il mio mestiere, insomma, cercare di capire di che diavolo è fatta la cultura umana, cosa c'è nella mente di Homo sapiens in tutte le sue manifestazioni del presente. cercando di collegare insomma questo con tutto il passato anche più remoto. Bene, e questo mi porta a leggere i commenti negli articoli dei diverse testate online, dove si esibiscono appunto i lettori che però desiderano anche dire la loro, Purtroppo nel 95% dei casi si leggono prevalentemente manifestazioni di una enorme, gigantesca ignoranza da tutti i punti di vista, sia chi apprezza, sia chi critica, chi con modi anche abbastanza estremi, ma c'è sicuramente ignoranza. Ignoranza proprio nel senso etimologico, cioè non conoscenza del tema. E da che cosa? Da appunto invece una conoscenza apparente, ma del tutto superficiale, anzi fortemente superficiale, superficiale, e io dico a orecchio, oppure anche a occhio e croce, a una spolverata. Ecco, e quindi insomma siamo proprio nella misura del chiacchiericcio d'androne del palazzo. Hai visto? Ecco. Insomma, quindi mentre appunto invece la questione è molto molto molto interessante, perché dicevo sociale, l'altra parola che voglio usare è progresso, no? Quindi nel senso però sempre di un'enciclica, in questo caso un'enciclica direi forse tra le più, anzi forse sicuramente tra le più significative al di fuori del dibattito interno, quindi come documento della cultura del Novecento, che è la Populorum Progressio appunto di Montini del 67. Quindi in questo senso il termine progressio, perché non è il termine progresso che è la che è il nostro, traduzione esatto del latino, ma non il nostro inteso ovviamente di quello di cui spesso abbiamo trattato, cioè nella chiave della rivoluzione industriale, la chiave tecnologica, la chiave della modernità scientifica. In un termine invece più direi morale, ovviamente, ecco, cioè il progresso dei popoli, appunto, e quindi l'adeguamento di quel progresso, in questo sì, quello occidentale, questo è il richiamo dell'enciclica, a quel modello, quindi a quel benessere sostanzialmente, che viene letto in quell'enciclica come evidentemente a danno di quello che allora era il terzo mondo, perché nel 67 era il terzo mondo, diciamo, l'oggetto di questa enciclica, che oggi non è altro che quello che chiamiamo tutta la grande popolazione in via di sviluppo, o in condizioni addirittura invece di povertà anche estrema, quindi sotto sviluppo. Però di quello stiamo parlando. Che veniva così circoscritto dentro la definizione terzo mondo. Ripeto, siamo nel 67 quando ci sono ancora due blocchi. Assolutamente, anzi siamo nel pieno proprio, della grande metà. Abbiamo rischiato la guerra nucleare nel Mar dei Caraibi da poco. Insomma, non ci sono ancora gli anni 70 in tutti i sensi, non italiani ma in generale, che saranno. C'è però appunto. Si stanno creando le crepe, perché la guerra dei sei giorni che sarà nella sua pur brevità e anche sei giorni appunto. Appunto piccolo, potrebbe essere un evento molto piccolo nella storia, come tra Perugia e Assisi una guerra del 300, ma in realtà invece se determinerà il cambiamento radicale di tutto l'assetto del geopolitico mondiale di quel periodo e della fine del colonialismo soltanto con il crollo del muro si tornerà ad avere un'esperienza di nuovo trasformatrice così potente come fu appunto quella guerra, che poi con le guerre successive e la reazione dell'OPEC innescò un processo che trasformò il mondo occidentale, il benessere del mondo occidentale, perché si aprirono delle questioni, e tutto questo ovviamente collegato in quegli anni con la lunga fase iniziata al principio degli anni 60 e che terminerà in realtà anche negli anni 80, ma che si concluderà nella massima parte negli anni 70 di decolonizzazione appunto dell'Africa, in questo caso che era l'ultimo grande baluardo dell'imperialismo europeo e del secolo XIX e anche prima in realtà, ma insomma che si era configurato il grosso era nel quello. XIX secolo con una violenza inaudita, ricordiamo Re Leopoldo, esattamente, Leopoldo del Belgio, stavo proprio dicendo, è come qualcosa di più simile al nazismo che conosceremo giusto un secolo dopo. E, molto dimenticato, diciamo, mm-hmm, nell'immaginario comune. Quindi, diciamo, questo rende, beh, il proprietario rende merito persone, al Belgio di essere riuscito così a defilarsi, diciamo, quando... della sua storia. Ovviamente il Belgio contemporaneo, insomma, non è imputabile, specialmente tutti i più giovani. Però c'è stato un però, lavaggio, insomma, collettivo delle coscienze. Insomma, è una storia un po', come dire, irrisolta. Nonostante Conrad. Hanno, esatto, i paesi hanno questi scheletroni nell'armadio che lì sono incredibili. Quindi in questo scenario Montini interviene. Là il Popolare un Progresso, io vorrei ricordare, insomma, a parte il contenuto che ho appena detto, cioè l'invito all'Occidente a dire attenzione, questo mondo che in quel momento ancora è in esplosione, c'è comunque un'onda lunga del boom che ha attraversato tutta l'Europa e anche l'America, perché gli Stati Uniti hanno avuto... Loro avevano cominciato prima. Esattamente, subito nel 47 già sono entrati in un boom, loro non dovevano ricostruire, diciamo, a parte Pearl Harbor, insomma, che comunque erano danni... Una base, certo. Sì, ma l'avevano già subito ricostruita dopo il 41, insomma, quindi non era già completamente, come dire, dimenticato. Per il resto il paese, diciamo, deve solo riconvertire, nel senso parzialmente, l'apparato bellico, ma neanche troppo, insomma, e avviare quello che poi sarà anche il successo del suo dominio, che si estende avendo vinto la guerra in una buona metà dell'Europa, sotto il controllo di un tallone che dialoga con i fascismi, che in quegli anni, parlo del Portogallo, della Francia, della Grecia, che ha appena subito un golpe, e dei grossi rischi che corre l'Italia proprio anche in questo senso. Quindi, che li sfiora questi, e varie questi volte, problemi, varie volte, insomma. Però la preoccupazione del colpo di Stato, dopo il Cile in particolare, quindi sarà grandissima, specie tra le file, influenzerà moltissimo la storia del PC, certamente, del paese, certamente, in modo radicale. Per cui, dicevo, appunto, il documento di Montini si inserisce in questo scenario, dove questo benessere che ha un prezzo politico che abbiamo appena riassunto brevemente, chiede di fare quello che ancora non si è mai fatto. Quindi siamo di fronte a sono oltre 50 anni che questo tema di fatto non è risolto, è stato affrontato con è un convitato di varie, diciamo, soluzioni più o meno oneste, più o meno riuscite, di interventi dell'Occidente che sicuramente in questi 50 anni ha investito, parlo anche in termini di ONU, di grandi organizzazioni internazionali governative e non governative, quindi una grande rete che ha saputo fare, la stessa Chiesa, quella cattolica, ma anche gli altri con l'attività missionaria era presente da secoli, ha tentato di adeguare sempre però con tutti i vincoli che comporta l'essere come presenza missionaria, e quindi lì il problema è grosso, insomma, ma non affrontiamolo oggi, l'abbiamo affrontato. Raccontato. Una carità pelosa, diciamo, ecco, per sintetizzare, e siamo stati pure tenri, però ecco, di fatto c'è qualcosa che non è stato definitivamente sciolto. In particolare sono i rapporti molto variegati nel panorama dei governi con le elite locali delle popolazioni africane, le storie passate dei vecchi imperi, regni, popoli, etnie, spesso irrimediabilmente fratturate da costituzioni di stati, staterelli del tutto, diciamo, inventati dall'artificio occidentale, che hanno incancrenito tensioni e conflitti. E il Ruanda, vale per tutti. Appunto, il Ruanda è, come dire, emblematico in una tragedia epocale, perché parliamo veramente di un genocidio nel senso 900.000 morti in tre mesi. Esatto, insomma, è qualcosa di spaventoso, insomma, ecco, siamo alle soglie, diciamo, dei più grandi orrori della storia umana. Quindi, appunto, come pars pro toto, questo ci dice che però, diciamo, di contro abbiamo i vari Mobutu, Bokassa, insomma, personaggi, una serie di nomi, di figure che spesso mimando in modo anche grottesco l'Occidente, per Bokassa addirittura Bonaparte, quindi sì, un Occidente un po' anche retro, perché in ottimi rapporti con Giscard d'Estaing, peraltro. Sì, sì, certamente. No, ma l'Occidente ha sempre fatto finta di niente. Parliamo. Salvo poi. Basti pensare al commercio delle armi, di tutto questo. tutti vendevano armi a tutti, a tutti. Salvo poi dire vergogna. Esatto, insomma, questo era lo scandalo che si è protratto e che ha determinato una decolonizzazione, un'autonomizzazione e quindi democratizzazione dell'Africa fragilissima e riuscita soltanto in piccolissime situazioni, sempre comunque a rischio enorme di conflitto. E questo quindi è irrisolto. La Popolare un Progressio, perché diciamo non sto facendo un elogio perché di letteratura in questo senso ce n'è tantissima, ma dal punto di vista invece dentro la Chiesa è invece una enorme novità. Ma perché? Perché non dice solo questo, ma tante cose di cui ricordiamo un paio di passaggi che furono come dire dissezionati su tutta la stampa dell'epoca, prevalentemente con un occhio molto molto critico, dagli ambienti ovviamente turbati da questa così inedita posizione. Che cosa si dice? In un passo Montini scrive, perché queste sono sicuramente, il testo è di suo pugno, Montini è un intellettuale molto raffinato, non se le scriveva sicuramente da solo, non aveva bisogno con l'aiuto magari per i materiali di sostegno, le note, però la linea la dava lui, ma assolutamente il testo è di suo pugno, quindi parliamo di un intervento di autorevole, anzi ora è anche santo Montini, per cui per quello che concerne i fedeli è una figura diciamo che assume ancora più valore di quanto non lo sia un pontefice che scrive un documento, perché la Popolare del Progresso è scritta ormai da un santo e quindi è come il cantico delle creature di Francesco, cioè ha lo stesso valore, quello letterario, ma per motivi storici, ma anche però di contenuti, come dire, teologici. Ecco, benché sia un documento politico di indirizzo pastorale, come poi sono le encicliche, è certamente un testo impegnativo, perché appunto dentro a questo non peraltro lunghissimo lavoro sul tema della giustizia dei popoli c'è un dubbio sulla proprietà privata, e questo diciamo non era proprio aspettato da un lato, e quindi insomma che non è garanzia assoluta e che soprattutto non è ontologica sostanzialmente, è derivata da un fattore storico che crea degli squilibri, bisogna stare attenti a come ci si confronta, non siamo certo di fronte a un inno comunista, no, ma siamo al dubbio di una chiesa che è appena uscita, ripeto, il concilio si è chiuso neanche 2 anni prima, il Vaticano II, quindi totalmente in fermento, mentre accade questo stanno apparendo in chiesa le chitarre, le batterie che raccontavamo qualche puntata fa, quindi anche lì c'è, come dire, un qualcosa di visibile, cambia la forma anche delle chiese, perché viene tolto il divieto di costruirle con quella che è la classica estetica del disegno dei bambini, no? L'abside con il campanile, l'ingresso, la scaliera, il rosone, si può essere liberi perché l'interno non ha più gli obblighi spaziali tradizionali, la comunità è chiamata a partecipare, il prete guarda ai fedeli e lo dialoga, anzi questo ovviamente nell'architettura verrà esaltato da tutti quegli architetti che cercano di andare incontro a questa novità, e quindi ci saranno chiese tonde, oblunghe, con diciamo le navate, anfiteatro, è tutta una... E così come all'esterno il mimetismo, il cercare di mostrarsi come una parte dell'abitato senza proporsi come isolata, come luogo astratto e di riferimento, come nel paesino dove c'è la piazzetta, il comune di fronte e la chiesa, e la chiesa si vede che è una chiesa, ma invece appunto come meno visibile nella sua istituzione, in questo caso di mattoni, di pietra, ma come aperta proprio, e questo perché i sagrati si ampliano moltissimo, ci cercano di dialogare con il territorio per mostrarsi accogliente e parte, come dire, del tessuto urbano. Questo a Roma lo si può vedere bene, basta documentarsi e visitare tutte quelle chiese fuori ovviamente dalle mura, perché molto fuori dalle mura, nei quartieri. Stiamo parlando dei quartieri degli anni 70. Però parliamo, esatto, quindi parliamo di una seconda Roma, perché la prima è quella degli anni 50-60, quella degli anni 70-80, che vede crescere di alcune centinaia di chiese, perché non c'erano proprio, le potete visitare e notare proprio queste diversità, con una qualunque, facendo un piccolo salto di 20 minuti, recandovi al centro, certo, delle chiese che vanno da quelle romaniche al barocco più spinto. Quindi, però che hanno sempre la stessa, esatto, per cui potete fare questo raffronto, è molto facile e anche divertente, interessante, come proprio le idee degli architetti. Spesso i motivi economici non ci sono, molti soldi sono povere, ma questo per alcuni parroci non faceva difetto, anzi addirittura i più progressisti in questo senso della Popolo Cresso erano d'accordo, cioè non c'è perché, va bene pure il tufo, il foratino, perché non l'esibizionismo, non diamo sfoggio, esatto, l'esibizionismo, diciamo, tardo berniniano è già dato, bellissimo, ma è lì, poi ormai quindi è pieno, quindi non è, c'è bisogno, poi inimitabile, ecco, sicuramente. Quindi in questo scenario si inserisce questo documento, che parallelamente a questa questione della proprietà privata, questo lo dico perché ha a che fare pure con questa, tu dicevi questa, ha violato i sigilli, appunto, non c'è un automatismo, no, nella Popolo Cresso, però la radice della predicazione, diciamo, che cattolica, che nella Popolo Cresso trova a un certo punto uno sviluppo nel mondo moderno dopo il concilio, questa affermazione che discute con Leone XIII, quindi la Rerum Novarum, dove si difendeva la proprietà privata, perché il documento viene pubblicato, come dire, qualche anno dopo in risposta, un librone incompiuto del Barbone di Treviri e di tante altre opere di contorno che avevano messo molto in difficoltà la Chiesa, che però fa comunque un'enciclica sociale, perché deve intervenire, ovviamente. Infatti la Rerum Novarum è l'altra, nel XIX secolo, grande enciclica di riferimento per capire come la Chiesa si sta adattando a quello che è successo negli ultimi 200 anni, questo alla fine del XIX secolo, è come dire, in pandan la Popolo Non Progresso, sicuramente, che ritorna su questo tema, proprio anche quello della proprietà privata, mettendola diciamo in dubbio come dato assoluto e generatore di ingiustizie insopportabili, financo ingiustificate. La cosa interessante è che l'ultimo discorso di Luciani, tipo credo il giorno prima o due giorni prima di morire, non sapendolo, evoca questa frase, proprio le tre righe che ho appena riassunto, perché non so, non ricordo a memoria, non me ne vogliate. Quindi poco, 10 anni dopo, poco sì, più. Praticamente sì, sì, 67, sì. Giusto 10 anni dopo, giusto 10 anni dopo. Molto interessante. Questo significava semplicemente che la linea di Luciani, che era appena stato eletto, stiamo parlando di un mese, voleva essere in questo senso. Abbiamo detto che Luciani, l'ho detto l'altra volta in una puntata, abbiamo parlato spesso perché la sua morte è agio di tanta letteratura bislacca, in realtà era perfettamente in linea, ma assolutamente, più che altro perché era figlio di un operaio socialista, o ferrovia, non mi ricordo, insomma, la madre era molto cattolica ma il padre era socialista. Ora, e questo non vuol dire nulla, però, come dire, un bambino che poi diventerà